Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar, eccoci. In questo 19 aprile, Sant'Emma. Sant'Espedito, San Geroldo, Mappalico. Mappalico, dai. E c'è, che vuoi da me? Questo è il calendario liturgico. Elfago. Ah. E c'è anche un Barnerio, però che sarebbe Werner, insomma, immagino in tedesco. Quindi insomma nomi un po' strambi. In questa giornata comincia 29 anni fa una serie televisiva che secondo me giustamente è entrata nella storia, quella dei Simpson. Il politicamente scorretto. 29 anni sono già altro che. Oggi nasceva, e dirò l'anno, tac, nel 1957 Lilli Gruber. Magari si arrabbia per l'anno se lo riveliamo. Beh, l'hai rivelato insomma. E 30 anni dopo, tac, Maria Sharapova invece, che 30 anni dopo. Ah, hai rivelato anche la differenza di età. Bravo, bravo. No, ma cattivello. Continua così. Continua così. Lilli non si tocca, non si discute. Ci dicono subito Mappalico da Bologna. Ma saluti a entrambi, Mappalico da Bologna. No, non è vero. No, non è vero che si chiama Mappalico questo ascoltatore? Beh, se si chiama Mappalico, buon onomastico, no, innanzitutto. No, dai, non è vero. Felici di rendere. Ascoltatore, beh, da Bologna, ci stai prendendo in giro. Vabbè, Mappalico da Bologna. Ma perché c'è San Mappalico? Quindi oh, c'è, è oggi, 19 aprile. E questo ascoltatore, però ci mandi una foto della sua carta d'identità, esatto, per cortesia. Non siamo come San Tommaso, no, però fidarsi è bene, ma... Esatto, Mappalico. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Oggi, Oscar, parleremo di immigrazione, ma parleremo anche, insomma, di politica, il dopo referendum. Ah, allora si mangia? Si mangia, politica. No, come diceva Totò, no. No, a proposito di immigrazione, ma io non so, adesso ci dici un po' la tua su questa storia degli Eurobond e la Germania che dice no. Certo che però quando il ministro delle finanze tedesco Schäuble propone di tassare la benzina per finanziare la questione dei migranti, viene da dire, amico, qua in Italia... No, abbiamo già l'abbiamo già fatta. E lo so, però negli altri paesi non c'è questa latrocinante tendenza dello Stato a rapinare accise come da noi in queste percentuali, capite? Quindi, dopodiché però, perché la nostra proposta è ricerca scientifica, si alza l'età e dice, bene, ci vuole un debito pubblico. Gli immigrati, ma ci vuole un debito pubblico. L'Eurobond. Ma ci sono le frasi, il debito pubblico vogliamo. Allora, perdona, questa ossessione italiana per dire basta stampare titoli di debito, io capisco che fuori oramai ridacchino, perché quello che è evidente è che noi trasformiamo ogni questione in un tentativo per dire, ragazzi, ci vuole debito comune non nostro, però debito, no, bisogna trovare risorse, è la Merkel, risorse, non di debiti. Però anche la risorsa mettendo l'accisa sulla benzina, capisco che forse in Germania forse non è consuetudine, noi il in paradosso. Italia quante volte abbiamo aumentato l'accisa sulla benzina? Paradosso è voluto, perché dire, cari italiani, voi siccome siete già, avete le accise altissime, che direste se noi contro propone, cioè è una presa per il culo voluta, non so dici, e noi allora proponiamo quello che, mettiamo un dito in un occhio. Esatto, visto che voi continuate sempre la stessa canzone, debito, noi vi diciamo tasse, non le volete, però, ecco, capito, e oramai è una commedia, devo dire, anche un po', ecco, stucchevole, ecco tutto questo. Immaginate quella foto che vedrete su tutti i giornali oggi di quel barcone con decine di immigrati assiepati. Non voglio fare del buonismo, però le foto a volte raccontano, guardate, io le ho viste quelle guardatele secondo, quelle facce di quelle persone, non so chi siano, non so da dove vengono e non so qual è il loro passato e quale sarà il loro futuro, però di fronte a quella foto lì, no, del barcone in difficoltà, questi bei dibattiti europei, una tragedia dei nostri tempi rispetto alla quale noi siamo distaccati e siamo contemporaneamente pieni solo delle nostre teste politiche. È così. Adesso io non voglio dire, uno potrebbe dire, è facile fare come fa il Papa. Sì, certo, da una parte. Dall'altra però l'incomprensione totale della radicalità di questo fenomeno, di che cosa significa, del fatto che non può essere, per così dire, esorcizzato con formulette politiche e con litigi europei. L'Europa sta affondando come idea politica proprio perché non è all'altezza di questo problema. Punto. È così. Eh no, ma certo, ma soprattutto non è unita, cioè dove c'è l'unità in tutto figurati, questo? Figurati, non solo non è unita, ma proprio non avverte che cosa significa questa faccenda. Cioè, faccio un esempio stupido. Nel quartiere dove sono cresciuto io, a Torino, con la Mirafiori Nord, che era un quartiere precedente all'arrivo degli immigrati italiani dal sud, che arrivano poi a Mirafiori Sud negli anni 60, era un quartiere dove le vecchie radici piemontesi si erano innestate con l'ondata che era provenuta dall'Istria prima, nella fine della seconda guerra mondiale, e poi dal Polesine con l'alluvione del Polesine. Allora, quella circostanza in Italia comportò 380.000 immigrati solo da quelle due aree del nord-est, 380.000, per avere un'idea, quindi, che non è vero che nella storia flussi di queste proporzioni non sono mai arrivati, e sono arrivati, li abbiamo saputi gestire quando l'Italia era molto più povera di adesso e l'Europa era molto più povera di adesso. Perché c'era un progetto, c'era qualcosa, c'era un'idea. C'era adesso anche siamo un senso diverso di, come devo dire, solidarietà, integrazione. Non faccio il mito, non sono un buonista. Io dico solo i fatti della storia sono questi. Sto parlando di una generazione che è precedente subito alla mia, non sto parlando di mille anni fa. No, comunque avremo ospite il direttore dell'unità Erasmo D'Angelis, che ci spiegherà perché invece questo piano va sostenuto, quello degli Eurobond che viene criticato dalla Merkel. Avremo ospite anche un economista che ci spiegherà un diverso tipo di immigrazione, certo, negli Stati Uniti. Quella dei paesi che si scelgono, fanno dei bandi anche per attirare il capitale umano già meglio formato, come fanno gli Stati Uniti, l'Australia, la Gran Bretagna, la Germania. Noi è no. Chiaro, è chiaro. Parliamo anche un po' di politica però, se volete, dopo referendum. Allora, Renzi, cosa dice Renzi? Ha vinto? Io non ho ancora capito. Prima si diceva che è tutto stato politicizzato, poi ieri Renzi ha detto ma non ha vinto il governo, ma io non ci capisco più niente. Beh, lui fa una strategia ecumenica, vogliamo sentirne, no? Sentiamolo, sì. Voglio essere molto chiaro, il governo non si annovera nella categoria dei vincitori, ma crede che i vincitori siano gli operai, gli ingegneri, quelle 11.000 persone che avrebbero rischiato il posto di lavoro. Ma in realtà secondo me si sente un po' vincitore, gongola sotto sì, sotto. Sì, non vuole per così dire stravincere, perché capisce che c'è un problema. Comunque c'è un problema alle amministrative per il PD e c'è un problema poi di questa specie di ordalia che lui ha posto, come dire, con me o contro di me. Ecco, io questa cosa di ottobre, poi ci sarà tempo per parlare, però effettivamente verrà posta in maniera secondo me troppo sbagliata nei toni, perché il concetto è: mettiamo che a me piace la riforma, facciamo un esempio, però non mi piace Renzi, o viceversa, non mi piace la riforma, mi piace, cosa devo votare? Dovrò andare a votare al referendum confermativo per la riforma, che è una cosa che rimane importante, o perché sarà un voto o con Renzi o contro Renzi? È un problema che secondo me molti italiani si porranno. Io temo che la radicalizzazione pro contro Renzi sarà pressoché inevitabile. È quasi concepita così perché... Ma è sbagliato. Lo so che è radicalmente sbagliato, però come si fa a evitarla? Cioè, come si fa a evitarla? Il PD non è in grado di evitare l'esplosione del suo dissenso interno in forme che si riverberano sull'intero governo del paese. E così, malgrado dovrebbe essere chiaro che la minoranza da dentro non lo cambia quel partito, perché i suoi numeri tante volte ci ha provato, sono ristretti, e alla fine è rimpiatta su ogni iniziativa politica, il referendum sull'energia e figurati quello sulla Costituzione. Ma coi toni che abbiamo avuto su una cosa che è andato a partecipare così pochi elettori, figurati sì, sulla Costituzione cosa avverrà. Certo. Comunque il ministro Boschi, oggi intervistato al Corriere della Sera, dice: se vinceranno i no al referendum di ottobre, questo governo non potrà far finta di nulla. Se vince Vicerandi sì, andrà avanti fino al 2018. Lei ci ha detto mille volte: io mi gioco tutto. È stato ancora più duro, fine. Infatti. È stato. Però vuol dire fine, se lo prendiamo alla lettera, significa che elezioni, ma lui non è il leader elettorale del PD. Fine per sempre, tu dici. Secondo me vuol dire fine di questa legislatura, alla fine. Ah, solo? Se uno dice mi gioco tutto, se viene bocciato. Ma scusa, vorremmo dire che non si dovrebbe ricandidare neanche la Boschi, visto che il DDL Boschi, nessuno, insomma. Questo la Boschi non l'ha detto. La Boschi, alcuni pensano che sia l'erede. Ma Renzi in molte circostanze ha detto: io mi gioco tutto su quell'imbostitura diretta. Allora, se non vuol dire che se poi si ripresenta, che si è giocato, scusa. Intanto ci chiamano Sabrina, ci chiama da Pistoia, per esempio. Sabrina, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Niente, io avevo telefonato per il discorso appunto quorum, siccome ho letto molte discussioni. Dal punto di vista secondo me, del politico, magari non fare politica per l'astensione sarebbe anche giusto, però che il quorum, il raggiungimento del quorum o meno sia comunque una scelta, e quindi sia una scelta come il sì e il no, anche non andare all'astensione, per quanto riguarda il referendum, secondo me è legittimo, cioè, non, dici. È legittimo. È proprio una battaglia, è proprio un qualcosa che uno può perseguire come strategia, sì. Esatto, anche perché poi dipende tutto dal quesito, cioè i grandi quesiti degli anni 70, degli anni 80, il divorzio e l'aborto erano un conto. Parlare di una legge che quella sulle trivelle, che poi non erano le trivelle, fa chiedere a me, che mi devo informare, devo vedere, la legge è comunque una cosa molto, insomma, relativa da un punto di vista di impatto sulla vita, non era una scelta sulla politica energetica del paese che poteva avere un senso, cioè, era una Sabrina, cosa molto... Lei fa argomenti che io da due giorni ho fatto miei per spiegare perché non sono andato a votare, però Sabrina, io quindi sono d'accordo con lei, ma molti ascoltatori invece... Sulla piena legittimità comunque non si può discutere, è un fatto quello della posizione, qua il referendum, dove vale il quorum, di dire ma io non ho il quesito, è marginale, è strumentale, non mi convince, quindi non vado. Ma sai cosa mi hanno detto ieri qualcuno? Sì. Vedi cosa è successo, lì in Polcevera, per il, ma cosa c'entra? Ma poi non è che se uno fosse per il nucleare ti farebbe Chernobyl, cioè uno è per il nucleare, per le centrali. Ogni caso quello che succede lì non ha a che fare, esatto, con l'estrazione, esatto, visto che comunque vogliamo... le pipeline, i tubi, le reti elettriche ci saranno. Ci sono. Poi se volete tornare alle candele fate quello che volete. No, ma per dire come si mette tutto in un mucchione. Sì, un mucchio dove tutto è grigio, però. Alfredo ci chiama da Bologna, Alfredo. Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar. Eccoci. Riallacciandomi a quello che avete detto prima, secondo me sicuramente hanno perso il cittadino italiano, perché ha speso un sacco di quattrini per andare a un referendum che poteva benissimo essere accorpato alle regionali, che sono tra non più di 40 giorni. Le amministrative. Le amministrative, se chiedo scusa. E questa è, secondo me, una roba scandalosa, visto che Renzi si presenta come il rottamatore, quello che parla di nuova politica, la vecchia politica va, e qui siamo al peggior Craxi, che dice andate al mare per il referendum di non mi ricordo che cosa. E anche perché questo referendum era un referendum legittimo, perché era legittimo, e lui come capo del governo, secondo me, non doveva assolutamente esprimersi come si è espresso, dicendo di non andare a votare. Perché è un referendum pienamente legittimo, visto che sono state raggiunte un tot di firme per riuscire ad arrivare al referendum, è passato alla Corte Costituzionale. No, ma è chiaro. Però questo, Oscar, non è un po', caro ascoltatore Alfredo, non è un po', come dire, il commento di ieri, adesso c'è, è un po' storia ormai, no? Se fosse legittimo o meno dire andate a votare. Per me lo è, poi io capisco che c'è chi, anche qui un'interpretazione politica, ripeto, cari ascoltatori, dal punto di vista della piena legittimità è un fatto, non è una questione su cui poter avere opinioni, dice no, non si può fare, è illegale, addirittura c'è chi ha detto andrebbe sanzionato, è puramente legittimo, fa parte del nostro ordinamento. Qui si discute se nella sua posizione, come quella di Napolitano, nella sua posizione, siccome la posizione del Presidente del Consiglio non è che è priva di titolarità di un indirizzo politico, il Presidente del Consiglio è titolare di un indirizzo politico, quindi se il suo indirizzo politico gli fa valutare che il quesito è strumentale, allora lui dice con la morte del cuore non partecipate. Si può essere brutalmente contrari a lui politicamente, non dire viene meno alla legge, ecco. Chiaro. Questo è una... Intanto qua Oscar c'è un caso, perché ci saluta anche Varnerio da Bergamo. Io però non so te, ma io voglio le carte d'identità, perché non... Varnerio però, si ripeto, è un Werner germanico, qualcuno può averlo latinizzato in Varnerio, io non ne conosco però... No, esatto, però è qua già due ascoltatori, sarebbe una coincidenza incredibile, Mappalico e Varnerio. Ma magari non sai mai, può essere il modo per segnalare dei figli naturali di appartenenti al clero, che a quel punto usano i nomi veri del calendario liturgico, è un segnale tra loro, capito? Vabbè, noi vi facciamo gli auguri comunque, ma non ci cogliolate, mi raccomando. Beh, è un modo per dire, ve li state inventando. No, stanno nel calendario liturgico, ragazzi, non ci posso fare niente. Esistono. E allora alle 8:33 minuti, tra un attimo ci concentriamo sull'immigrazione. Vedi l'unità che foto mette, proprio quella che dicevo io, no? La foto di questo, italiani, no? Sì. Questo barcone in estrema difficoltà, foto che trovate. Ma è PD? No, non è il PD. Ma credevo per un secondo. Per un secondo, dai, tra un attimo state con noi. Però vedi, Oscar, che non sono ancora arrivate le carte d'identità dei nostri Varnerio. Ma non ce le avranno sotto mano. Loro non credono a questo San Varnerio, il Sago, Geroldo e Mappalico. E invece, ragazzi miei, la storia della Chiesa nella sua grandezza ha avuto anche questi martiri. Guardate che la metà sono poi membri di famiglie ricche che venivano, cioè Emma di Sassonia. Non credete mica che fosse una poveretta. Insomma, la Chiesa Cattolica amministrava bene i suoi interessi con le canonizzazioni. Naturalmente non voglio dire mancare di rispetto a chi crede che invece il culto dei santi sia fatto solo attraverso la santità, però insomma, se sono così tanti e numerosi gli appartenenti alle case regnanti, qualcosa ci dice che allora. Caro Oscar, torniamo però alla questione immigrazione. Ecco, allora vogliamo spiegarlo, quali sono gli elementi sul piatto? Tu hai dato una lettura molto interessante a mio modo di vedere, cioè si sta discutendo, l'Italia vuole proporre questi euro bond per finanziare che cosa? Per sostenere gli stati da dove partono. Sì, la tesi italiana è: abbiamo dato 3 miliardi alla Turchia, questa cosa, esatto, che hanno dato i miliardi alla Turchia, Renzi resta qua, perché sì, ti ricordo che appena approvato il piano che ha voluto la Merkel, subito l'Italia ha detto anche a noi, ecco, e come al solito, ma che cosa c'entrate voi? Va rimesso il flusso tra la Grecia e la Turchia, i soldi non andati alla Turchia, che li tengano. Allora, dopo aver detto anche noi, adesso l'Italia dice bisogna fare accordi come con la Turchia, con i paesi di provenienza, quindi 3 miliardi a uno, 3 miliardi all'altro, 3 miliardi la Libia, cioè quella Libia lì, che la Libia lì che ancora non esiste, l'Egitto perché è ripartita la rotta egiziana. Sì, io non credo che sia un caso, tra l'altro, perché questa vicenda di questa notte, o di ieri meglio, noi i particolari ancora non li sappiamo. Esatto. Sono televisioni che fanno riferimento all'Egitto che lanciano la notizia, che sottolineano sempre che i barconi sono partiti dall'Egitto, da Alessandria. È il giorno della conferenza stampa in cui, come evidente, la Francia, come temevo, avevo anche scritto, dà uno schiaffo all'Italia perché firma accordi con la Francia, l'Egitto per 1,5 miliardi di armi, e in quella conferenza stampa Al-Sisi dice chiaramente all'Italia: viva i diritti umani. Beh, anche questa però è una cosa sulla quale, allora, cioè, per carità, io non sono una verginella, però un po' mi ha fatto sobbalzare sulla sedia, esatto, cioè i diritti umani, e poi arriva Al-Sisi, esatto, e firmi 1,5 miliardi. Ma no, è evidente che la Francia gode di questa sventura diplomatica e politica del caso regione italiano. Allora, che questa vicenda abbia molte cose non chiare, perché non si riesce a capire bene anche l'entità, purtroppo, di questa tragedia, resta il fatto che il canale è stato riaperto dall'Egitto. Cioè, quindi l'Italia proporrebbe degli euro bond per dire debito, anche facciamo con loro, finanziamo attraverso il debito questi grandi accordi anche con loro. La Germania invece, Schäuble, fa questa provocazione, tu dici, cioè dice e noi invece proponiamo aumentiamo l'accisa sulla benzina. Ne avete già tanti, cari italiani, beh, ma anche di debiti ne avete tanti, per questo li volete comuni, cioè insomma è la solita consueta, ecco, devo cioè dire. Invece che cooperazione verrebbe da dire a brigante e mezzo, sì, proprio detto per dente. Bene, insomma, in buona sostanza, non solo chi se ne frega degli immigrati, per essere chiari, ma anche l'irrisione reciproca delle proposte, che è poi l'acido corrosivo che sta facendo indebolire l'Europa. Io devo dire che, per esempio, oggi ho apprezzato, tra i diversi pezzi, l'editoriale di Paolo Mieli sul Corriere della Sera, che fa capire come la politica europea, e devo dire si rivolgeva anche soprattutto a quella italiana, sia incapace di una piccola ma allo stesso tempo seria grandezza che invece il leader laburista, tanto criticato, marxista Corbyn in Gran Bretagna, è riuscito a impartire come lezione di etica proprio politica. Tutti si aspettavano, per via delle sventure di Cameron sui Panama Papers eccetera, essendo Cameron alla testa del movimento che dice non votate per uscire dall'Europa Brexit, che invece il leader laburista dicesse adesso: caro mio, i laburisti escono e uccidiamo con questo Cameron. E dice Paolo Mieli: pensate che lezione per l'Europa e per l'Italia, che invece Corbyn, deludendo i suoi, dice no, io non posso per odio verso Cameron pensare che sia meglio uscire dall'Europa. Bisogna invece, malgrado sia anche Cameron a dirlo, dire sì, restiamo in Europa. Ecco, noi sugli immigrati in Europa non riusciamo a ragionare così. No. Poco da fare. No, è tutto un muro contro muro, a volte muri fisici, e poi i risultati sono muri di cui siamo prigionieri, noi per primi, se posso dirlo. Sentiamo però gli ascoltatori. Daniela ci chiama da Napoli. Daniela, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per avermi fatto intervenire. Allora, io volevo lasciare a voi questa mia considerazione. Allora, considerato che l'Italia, così come l'Europa, sono assolutamente incapaci non solo di ospitare in maniera degna, io dico, né tantomeno di offrire un lavoro o una formazione a tutti questi poverini che vengono semplicemente sballottati di qua e di là. I più fortunati finiscono col vendere braccialetti per strada, i meno fortunati spacciare hashish, cocaina o fare le prostitute. Io parlo soprattutto dei nordafricani, in campagna ne vedo tanti, quelli che si Daniela, però per tanti anni hanno raccolto anche pomodori e li raccoglievano loro, E nemmeno questo va bene, nemmeno questo va bene, perché sappiamo che non vengono pagati come i nostri agricoltori. Allora, poiché siamo incapaci, noi e l'Europa, c'è qualche paese europeo più furbo che è in grado ancora di prendere soldi da questi paesi senza dare loro niente? Noi invece ci rimettiamo solo i soldi perché non siamo mai stati visto capaci. Che non siamo in grado di accoglierli, lei cosa propone? Allora, non accogliamoli? Tutto ciò che viene speso deve essere invece speso nei loro paesi, chiaramente con l'intervento dell'ONU, per insegnare a queste persone un lavoro, per dare a queste persone un minimo di benessere, nel senso di magari di creargli delle case. Aiutiamoli a casa loro? Ma insegnandogli un lavoro, dandogli un'istruzione, altrimenti almeno in questo modo gli lasciamo un qualcosa che abbia un valore reale, perché pagare alberghi inutilmente per vederli che camminano avanti e indietro non serve a nulla. No, ma Daniela, insomma, l'aiutavano a casa loro. C'è una visione un po' antropologica, se posso dire, di superiorità in questo, aiutiamole a casa loro. Molto spesso vivono in dittature, Chi scappa dalla Siria e dall'Afghanistan è esattamente un casa loro che non esiste. Oppure arrivano i soldi, che ne so, un paese, non lo nomino, e questi soldi magari vanno in tasca al dittatore di turno, non è che li investe per l'istruzione, per il lavoro, se li tiene bisogna distinguere paesi come per esempio il Mali, il Gambia, da cui noi abbiamo quote crescenti, il corridoio africano che sbocca nel Mediterraneo, noi abbiamo quote di questi paesi centroafricani molto elevate. Lì stiamo parlando di paesi falliti, in effetti. E la domanda che faccio la nostra ascoltatrice è: per esempio, i francesi hanno una missione militare in Mali, ne sono morti altri due sabato scorso. Siamo disposti? Se non siamo disposti, però, perché per aiutarli lì bisogna anche stabilizzare militarmente e politicamente quei paesi. Allora, noi sentiamo Marco da Modena, poi abbiamo un ascoltatore che ci racconterà una prospettiva diversa, magari, di come si può gestire un'immigrazione di altro tipo, migrazione economica, un po' disperata, ovviamente. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma ogni tanto quando intervengo sapete che io dico Giannino, Ministro dell'Economia, però in questo caso non dico Ministro Giannino dell'Immigrazione, perché non mi è piaciuto l'esempio che lei ha fatto Ministro prima. Ministro di che? Non si è capito? No, ho detto mi piace tutte le poche volte che c'è, dico Ministro Giannino dell'Economia, ma non Ministro dell'Immigrazione, perché l'esempio che ha fatto prima mi sembra un po' una pisciatina fuori dal vaso. E mi dica questo termine. No, perché 300 lei ha parlato prima di gente che veniva dalla Venezia Giulia, sì. E immigrata a Torino. Cioè, fare l'esempio con quelli che arrivano adesso, gente, poveretti, che quelli là arrivavano magari dal sud con le valigie di cartone, arrivavano a Torino, cercavano un lavoro, sicuramente avevano i loro problemi e molti finivano nella delinquenza anche nel sud Italia. Però non facciamo questo esempio con gli immigrati che adesso arrivano disperati in questo modo, tutti da accogliere, non hanno niente in mano. A meno che non si voglia fare come su là in Scandinavia, dove gli prendevano tutto, in Danimarca, dove gli prendevano addirittura quei pochi soldi che avevano. Voglio dire, non si può fare l'esempio con gli immigrati italiani. Non li vuole paragonare. No, il paragone è improprio. A parte che me. Il vostro esempio, poi alla fine qual è? La vostra soluzione qual è? Mandiamo qui tutti i disperati del mondo nell'Occidente. Ma lei ragiona un po' per bianco e nero. Parte poi per paradossi, infatti io ascolto. Scusi, posso dire una cosa? Sono cresciuto in una città nella quale c'erano i cartelli, non si affitta ai meridionali. Marco, di che parla? La gente non era in grado di capirsi con la lingua. Però non la voglio convincere, perché sennò finisce ora. Io le dico semplicemente. Va bene, non la convinco, però lei non convince. Marco, nemmeno lei a me. Punto. E qui è inutile gridare. Ragioniamo invece di gridare. Dico solo, non sto equiparando. Dico che nella storia, quando eravamo più poveri, molto più poveri, l'Italia del dopoguerra piagata dalle bombe, era questa roba qua, ha affrontato fenomeni di centinaia di migliaia di immigrati, poverissimi, di cui non si intendeva neanche con la lingua, E com'è, come non è, però, il modello di integrazione al basso ha funzionato. Ha funzionato. Allora, io credo che nel credere che quello che avviene oggi sia innanzitutto flussi mai visti, non è vero nella storia. B, siamo semplicemente più chiusi per la crisi, non vogliamo condividere. Benissimo, lo capisco per tante ragioni, ma credere che siano fenomeni nuovi che non abbiamo mai affrontati non è così, non so cosa dirle. Poi... poi no, ma è chiaro, non è che siamo noi qui a Radio 24 a dare la soluzione con la S maiuscola da seguire, cioè nel senso è che non sono facili le soluzioni, ma quando non c'è unità di intenti di certo una soluzione non ci sarà mai. Però vogliamo introdurre un ospite che ci sta ascoltando con pazienza, Daniele Archibugi, è dirigente al Consiglio Nazionale delle Ricerche, insegna anche. Buongiorno professor Archibugi, eccoci qua. Ci sente? Come no? Eccoci qua. Professor Archibugi, allora, vogliamo parlare di un altro tipo di immigrazione, non certa quella dei barconi di persone effettivamente disperate che giungono sulle nostre coste. E cioè l'immigrazione è quella in cui, diciamo, il segmento elevato, diciamo esatto, le persone qualificate, gli Stati Uniti sono l'esempio di cui si trattava qualche giorno fa sui giornali, hanno una specie di bando annuale per 65.000 visti a disposizione pluriennali per persone ben formate, 20.000 per chi ha un PhD, cioè formazione terziaria, post-terziaria, e vanno a ruba in pochi giorni, perché esatto, da tutto il mondo la gente qualificata dice vengo da te. Proporlo qua in Italia sembra quasi che uno voglia scegliersi come se fosse una politica di razzismo, certo, no? Esatto. Invece questa è una scelta praticata dalla Germania, l'Australia, la Nuova Zelanda. Perché da noi no? Ottima domanda. Allora, cominciamo a dire che bisogna distinguere tra due tipi di immigrazioni. L'immigrazione che viene perché è utile a noi e l'immigrazione avviene perché persone sono talmente disperate che devono fare qualsiasi cosa per scappare. E quindi sono due cose completamente diverse, no? Quando il caso che lei ha fatto degli Stati Uniti è il classico caso in cui gli Stati Uniti sono consapevoli che per mantenere i loro livelli di vita hanno bisogno di cervelli qualificati, spesso formati in scuole e università di paesi poveri, per sostenere il loro livello di vita. E quindi se uno ad esempio va nei grandi campus americani, all'MIT, al Caltech, a Pasadena, e dice ma io qua sto in America… perché sembra di stare a Chinatown, certo. Sono quasi tutti orientali, cioè fisicamente magari sono americani di seconda generazione, no? Però sono quasi tutti orientali che stanno lì a fare le professioni del futuro, ossia ingegneri del software, ingegneri nelle biotecnologie e altre materie scientifiche di questo tipo. Ora, il benessere, la ricchezza degli Stati Uniti, compresa la possibilità che gli Stati Uniti hanno avuto di uscire dalla crisi prima dell'Europa, dipende anche a questo personale altamente qualificato. Ora, lo dico perché qualche anno fa ho presieduto un gruppo di esperti della Commissione Europea e abbiamo fatto due conti e ci siamo accorti che per mantenere i nostri standard di vita noi abbiamo bisogno, visto il nostro declino demografico e visto il fatto che i nostri ragazzi vogliono fare i registi, gli attori, i poeti, ma non gli ingegneri, abbiamo bisogno di importare 2 milioni di cervelli qualificati dai paesi che hanno tendenze demografiche diverse dalle nostre. 2 milioni in quanti anni? Entro il 2050. Quindi, gli italiani sono pronti, cioè capiscono questo tipo di messaggio, secondo lei, professore? Sì, però voglio dire, il messaggio è anche dirompente, perché guardate quello che succede in Gran Bretagna. La Gran Bretagna non è un paese che è ridotto proprio sul lastrico, no? Importante, una grande potenza. Ecco, allora in Gran Bretagna succede che non hanno i medici, stanno importando i medici dall'Angola. No? Perché non hanno formato, dato che per formare un medico, almeno un medico insomma che risolva qualche problema, non che lo crei, ci vuole un decennio, no? Non hanno formato negli anni passati sufficienti medici per curare gli inglesi. Ma se noi importassimo anche un solo medico, ci sarebbe la reazione dei sindacati ospedalieri che direbbero che stiamo escludendo coloro a cui non stiamo dando l'abilitazione. Immagini in Italia. 2 milioni di ingegneri, tra l'altro, da paesi che hanno una Può essere che noi ci sbagliamo. Lei che pensa, che non sarebbe così? Sarà senz'altro così, ma c'è anche un problema di equità, perché le pare che, voglio dire, fino a quando arriva il raccoglitore di pomodori, sono d'accordo, nessuno di questi paesi in via di sviluppo protesta. Ma se noi andiamo a togliere il capitale umano più pregiato, è chiaro che non è che facciamo un aiuto alla politica dello sviluppo, no, facciamo un danno, no? Affermiamo i nostri interessi, come fanno infatti i paesi che praticano queste prassi di scelta della qualità formata elevata. Fanno come, i loro come risponde alle critiche di chi dice proprio andiamo a depauperare il capitale umano di quei paesi? Perché È chiarissimo che noi abbiamo detto chiaramente che bisogna passare dal brain drain, ossia dal drenaggio dei cervelli, alla circolazione dei cervelli. Il che vuol dire che l'Europa, che ha un certo capitale, diciamo così, anche anzianotto, insomma quello a cui appartengo io stesso, notevole, dovrebbe contribuire a creare il capitale umano nei paesi in via di sviluppo. Ah, infatti. E quindi che dovrebbe essere una circolazione, cioè, dei cervelli. Uno scambio a questo punto. Cioè, per essere chiari, poiché le università italiane, tranne pochissime eccellenze, non sono, diciamo, come la Ivy League negli Stati Uniti e così via, ma sono pur tuttavia in grado di attirare da un bel po' di paesi emergenti capitale umano da formare. Noi dovremmo avere una politica di attrattività universitaria verso una certa decina, doppia decina di paesi emergenti al mondo, e dovremmo proporci come polo, come magnete per attirare quelli da formare qua, per poi tenerceli qua e poi riportarli anche là. Questa è la circolazione. Io adesso lo dico in modo aneddotico. Io mi sono trovato nella periferia di Giacarta, in un posto in cui, vuol dire, non c'erano nulla. A un certo punto vedo un edificio enorme e vado a leggere la scritta e vedo Università Tecnica Tedesca. Scritto in tedesco. Fachhochschule, certo, esattamente. Insomma, giusto per capire, con questo aneddoto, che secondo me è anche molto significativo, la dobbiamo fermare perché il tempo è scaduto. Però, ma lei, professore Archibugi, ha tanti elementi della politica dell'immigrazione di cui non ci occupiamo, no? Mentre continuiamo a dividerci, buttiamoli via oppure no. Vabbè. Professore Archibugi, mi sa che lo richiameremo perché ha tanti elementi di discussione. Poi ognuno la pensi come vuole, ma noi forniamo elementi di discussione e non forniamo soluzioni definitive. E soprattutto, però, non ci occupiamo solo del dilemma Renzi sì, Renzi no. Ecco, fateci parlare anche degli altri problemi. Esatto, esatto. Va bene, dai Oscar, ci fermiamo qui per oggi e ci ritroviamo domani. Ciao.